la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Non delegare, partecipa. Quattordici minuti passate le ore 21. Torniamo in voce qui sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. L'appuntamento del giovedì sera dalle ore 21 alle ore 22 con Do It Yourself Invasion. Ricordiamo brevemente i contatti della radio. 3w.ondarossa.info, sito attraverso il quale potete ascoltare la radio anche in streaming. Radio Onda Rossa, quasi da 39 anni libera nell'etere, senza padrini, senza padroni. Progetto autofinanziato ed autogestito che ha bisogno del sostegno di tutte e tutti per continuare a trasmettere libero, per dare spazio alla musica fuori dalle logiche di mercato. Dormimmo in una casa costruita con le bombe piovute dal cielo nei giorni di guerra, di una guerra che non è mai finita. E quindi l'invito è a sostenere questa radio attraverso appunto il sito, andando a cliccare su sostieni sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate per poter sottoscrivere. Abbiamo attivato anche una nuova pagina di crowdfunding, quindi sempre andando a cliccare su sostieni e per sostenere questa voce libera nell'etere, non la mia, quella della radio, sì, perché questa radio va, va anche avanti grazie al libero contributo di redattori e redattrici. Non per ultimo il conto corrente postale, il 6140 6180 4001, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 5600185, Roma San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info per proporci le vostre autoproduzioni e per segnalarci le iniziative. Intanto sotto vanno i Kalashnikov Collective, qui dell'ultimo disco, L'algebra morente del cielo, uscito l'anno scorso. Stavo facendo i calcoli, e quindi L'algebra morente del cielo, una coproduzione di Radio Onda Rossa. Potete trovare questo bellissimo vinile. Non so se avete avuto mai modo di dare un'occhiata, insomma, alle autoproduzioni dei Kalashnikov Collective, sono sempre curatissime nella grafica e nel packaging. E quindi un vinile cartonato, speriamo ai bordi delle stelle, dove le apribile, con un libretto di grafiche e racconti di 24 pagine, insomma un bel vinile. Lungo le scogliere a picco sulla vita. E questo è Noi sospiriamo ai bordi delle stelle. Bambini soldato armati di apriscatole scoperchiano un futuro che è il cibo per i vermi, mentre dal cielo piovono le bombe, piovono sul mondo che è in guerra e non lo sa. Noi sospiriamo ai bordi delle stelle, dove le pozzanghere sono blu cobalto, dove i sogni scappano come cani lungo le scogliere a picco sulla vita. Scatole scoperchiano un futuro che è cibo per i vermi, mentre dal cielo piovono le bombe, piovono sul mondo che è in guerra e non lo sa. Noi sospiriamo ai bordi delle stelle, dove le pozzanghere sono blu cobalto, dove i sogni scappano come cani lungo le scogliere a picco sulla vita. Armati di apriscatole scoperchiano un futuro che ha cibo per i vermi, mentre dal cielo piovono le bombe, piovono sul mondo che è in guerra e non lo sa. ragazzi, iniziamo questa puntata con le autoproduzioni di Radio Onda Rossa. Anche questo, anche questa è una coproduzione insieme a tante altre realtà. E questo è l'ultimo disco degli Obophobic del 2013, che è Portami Lontano Da Qui. Questa ce la riascoltiamo da capo e ricominciamo da qui. Con la luna piena viaggerò, quanto ho sofferto, oh, per essere umano. cariche che voglia di pizza ho. Oh, sarò malo però poi invecchierò, profeta non sarò, ma il cuore mio sa già laggiù dove sono. Per un po' qualcuno ha insultato il mio essere marò, con la nostalgia che ho, chissà quando tornerò. E loro sono i No Ciappi Bourgeois con Nostalgia Marò. Questo è ricordare l'iniziativa del prossimo 27 marzo. Per festeggiare i 25 anni di autogestione e di occupazione del Laurentino 38 Squat. Poi lo ricorderemo ce la facciamo. La sì, lo ricorderemo insomma nelle prossime puntate, nei prossimi giorni. Insomma, 25 anni di autogestione e di occupazione Laurentino 38 Squat, con appunto da Genova No Ciappi Bourgeois. Li abbiamo sentiti ora Folli, e poi con The Bad People Yescara e gli Scelste Auto der Carabinieri. Questo domenica 27 marzo al Laurentino 38 Squat. Iniziativa che partirà dalle ore 19 con la presentazione di un opuscolo, alle 21 la cena vegan e poi a seguire i concerti. E questa gliela dedichiamo tutta. Sempre da Portami Lontano da Qui degli Obofobic. Come l'acciaio che resiste, questa è una richiesta che ci arriva allo 06 49 17 50. La rimettiamo da capo, come l'acciaio che resiste. Percorsi vibrazioni strane, c'è puzza di combina, qui va a finire male. E poi tutti intorno non c'è niente da capire, mi passa a quattro passi, la voce alta griderò con tutte le parole, con l'ultimo respiro, senza guardarmi indietro, senza averne pazzità, con tutta la mia rabbia fatta strana la città. Quanto è strana la città. Industria criminale, malattia provvidenziale, c'è gente intravattata e gente messa male. Ci vuol poco per capire, in questa merda morirò col pugno di dritto al cielo e verso il mare griderò con tutte le parole, con l'ultimo respiro, senza guardarmi indietro, con il vento volerò con tutta la mia rabbia in questa terra lo chiederò per non aver paura della notte. Insomma, rimaniamo in tema di Tyrant Hardcore. Loro sono in Sud Disorder con Città Deserte. E neanche farla apposta, abbiamo qualche pugliese in linea. Pronto? Pronto, ciao. Sì, ciao. Ciao a tutti e tutte. Allora, niente, ci abbiamo in linea, vabbè, qualche voce magari la ve la ricordate da qualche puntata fa. Loro sono i Repressioni. Buonasera. Buonasera. Buonasera da Repressione. Ecco. E da tutto l'XM 24. Benissimo. Allora, insomma, dove e niente, insomma, vi volevamo sentire, insomma, per rilanciare l'appuntamento di sabato. Abbiamo parlato da questa radio di Bologna negli ultimi giorni, sia per l'iniziativa che ha fatto Blu insieme ai compagni dell'XM24 e di altre realtà, insomma, sì, è una tinta di grigio su Bologna, no? Sì, diciamo che oggi c'è stata un'altra pennellata di grigio, perché certo, stamattina siamo stati svegliati dagli sbirri che sono andati a sgomberare lo sportello del Social Log, diciamo, che diciamo è un locale che stava in via Masini, diciamo vicino anche alla stazione, un luogo abbastanza comodo anche per le persone che si andavano lì a chiedere un po' di solidarietà, una mano. E questo locale era di vuoto dal 2009, sfitto, così i collettivi se ne sono riappropriati e avevano creato uno sportello antisfratto che funzionava parecchio, e gli sbirri hanno risposto manganellando solidari ragazze e ragazze, anche donne con passeggini, diciamo. Quindi diciamo che in questa situazione qui ci sarà appunto sabato alle 15.30 un corteo di solidali che partirà da Piazza dell'Unità per ribadire che noi questa Bologna non la vogliamo grigia, no? E stasera qui all'XM c'è una bella iniziativa appunto a sostegno di tutti gli imbianchi, anzi gli ingrigini che sono stati denunciati per aver aiutato Blu, no? Sì, sì. Infatti ultimamente gira questa frase: se i disegni sui muri ti denunciano, se cancelli i disegni ti denunciano, no? E quindi c'è questa bella serata qui con Contatto, Into the Above, Digistomper, e niente, rilanciamo appunto all'interno di questo discorso di solidarietà anche quel bel concerto che ci sarà sabato organizzato dal nostro collettivo Saletta Prove Autogestita. Ci saranno i Collapse che fanno trash da Firenze, i Repulsione da Modena fanno Power Violence, Modena e Bologna in realtà, e poi due gruppi locali della Saletta che sono gli Agesters che fanno Blacknet Crust, Neocrust, e gli Scalp, dove canta anche Edo, che è il nostro chitarrista. Sarà una serata benefit, ricordiamo, per Pippo and the Tommy, che sono tre compagni accusati di essere antifascisti fondamentalmente, e poi di supporto anche alla bellissima realtà che vogliamo che continui a rimanere nell'etere, che è quella di Radio Onda Rossa, con cui si è creato un bel sodalizio, se vogliamo continuare ancora. Benissimo. E niente, a nome di tutta la redazione non posso fare nient'altro che sottolineare il ringraziamento da parte nostra. E no, insomma, ci ridiamo, insomma, alla, come dire, al mutuo aiuto di realtà autogestite. Grazie. Certo, rilanciamo, prima si va al corteo e dopo, certo, si va al concerto, ovviamente benefit, perché... e poi si registra tutto, si registra. Allora, grazie a te. Io però volevo fare un passo indietro, magari raccontiamo un po' a chi non c'è mai stato all'XM24. Lo prendiamo come spunto, poi i murales di blu in giro per Bologna erano diversi, molteplici, dai molteplici significati. Magari lo portiamo come esempio, lo vogliamo ricordare cosa rappresentava il murales che c'era proprio all'XM24? Allora c'era questo bellissimo murales che adesso stanno passando le trombe tutti. C'era un bellissimo murales che era grande, tutta una facciata, che rappresentava la lotta tipo Signore degli Anelli, no? Tra le forze del bene e le forze del male. Ovviamente tutti i compagni militanti capeggiati da Willy, che era Willy Sindaco, il nostro simbolo, diciamo, il simbolo dell'XM, anche di tutta di questa candidatura che ci fu all'altra elezione comunale, di questo grande personaggio tra virgolette, tutto tatuato, il 90% del corpo completamente tatuato, e ci fu questa raccolta firme per farlo proporre come sindaco. Sicuramente sarebbe stato un ottimo sindaco rispetto a Merola, certo, diciamo. E quindi sì, era un bellissimo murales che colorava un po' questa zona della Bolognina, che ultimamente è al centro della campagna elettorale, della gentrificazione che vogliono fare di tutta Bologna, il PD e il loro signore, diciamo. E quindi questa è solo una delle tante tappe di gentrificazione, perché qui dietro è stata fatta la trilogia navile con tanto di studentato, e a due passi dall'XM pare che anche minacciano, incombono come delle torri di Sauron, no? Certo, le forze delle tenebre, eh? No, dico le forze delle tenebre, no? Esatto. E poi a due passi qui c'era la bellissima occupazione dell'ex Telecom, dove 300 persone di tantissime etnie diverse si sono ritrovate, hanno trovato una dignità, un tetto, tanta solidarietà, e insieme hanno costruito dal basso quella che era una bellissima realtà sgomberata in una situazione filo simile a quelle che vediamo nelle immagini della Palestina: 42 camionette, teste rotte, manganellate. È, diciamo, un'altra situazione che viene a sparire. Eh sì, un'altra bella risposta che danno le istituzioni al tentativo, insomma, di reagire a questo clima di crisi e di difficoltà, di disagio dovuto appunto alla crisi. E la risposta sono solo manganellate e sgomberi violenti. Questa è la loro ricetta, diciamo. Questa è la loro ricetta. Però insomma, Bologna non si ferma. Ricordiamo l'appuntamento di sabato per il corteo? Sì, certo. Allora alle 15:30 corteo che parte dal cuore della Bolognina in Piazza dell'Unità, e che attraverserà la città per gridare che ad ogni sgombero noi risponderemo con una nuova occupazione, diciamo, portando la solidarietà della lotta per tutte le persone che vogliono una casa, no? Proprio in questa città di parassiti, dove la gente affitta in nero e sono studenti che pagano delle cifre assurde per delle case fatiscenti, niente, loro signori vogliono la legalità, no? E poi ha sempre due pesi due misure: per noi sgomberi, per loro invece tranquillità e nessun problema. E dopo il corteo, insomma, ricordiamo sempre l'XM24, l'iniziativa dopo il corteo si viene tutti qui, tutti all'XM, in questa bellissima saletta prove rossa e nera, diciamo, e ci sarà da mangiare, da bere, ci sarà, diciamo, un clima conviviale, una macio frittone, quindi nessun razzista, nessuno sbirro, nessun fascista, sarà ben accetto. Ci saremo noi a fare da spola tra la cassa e il bar, E poi niente, ci sarà bellissima musica tra il Power Violence e il trash in questa bella serata a sostegno di Radio Onda Rossa di Pippo Andre Tommy. Cioè, sempre ricordando qual è il significato della serata e mai soffermandosi soltanto sulla musica in sé, basta. E su del divertentismo, perché è fino a se stesso, quindi noi c'è un significato per cui bisogna partecipare a queste serate qui, questa come altre, diciamo. Benissimo, e noi niente, ci saremo, registreremo tutto il concerto, porteremo probabilmente, no, sicuramente porteremo qualche produzione, qualche autoproduzione dal banchetto di Radio Onda Rossa, e grazie ancora, ci vediamo sabato. Certo, okay, grazie a voi, figurati, è un piacere. Dai, a prestissimo, un abbraccio. Dai. Un abbraccio a tutta Radio Onda Rossa, ci vediamo domani. E a chi ti ascolta. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Young Gang da Torino, qui dallo split con i Fry Boiter del 2006 tra i vicoli bui. Ricordiamo anche l'appuntamento di questo sabato 19 marzo a Roma. A Roma non si vende. E quindi delle ore 16 l'appuntamento a Piazza Vittorio Emanuele per dire stop a sfratti e sgomberi. E noi continuiamo con gli Young Gang. E questo è per la... è per chi resiste, per chi scende in strada. A sostenere la radio che non ha pubblicità, quindi non ha padroni, non ha padrini, e va avanti da parecchio tempo libera nell'etere romano. Quindi vi lasciamo al concerto, grazie. E noi continuiamo con la proposta di estratti live dall'iniziativa del CSOA Ipo di Marino dello scorso 20 febbraio. La scorsa puntata abbiamo trasmesso estratti dagli Scheletro e dagli Ostiliter, concerti che trovate in forma integrale appunto sul sito di Redondo Rosso, andando a cliccare su palinsesto, quindi giovedì, e quindi Do It Yourself Invasion, trovate tutte le registrazioni integrali. E qui insomma passiamo un estratto appunto dal concerto dei Lud Rising e poi più tardi con i Malclango. Posso dire ufficialmente che l'ultima cinghia sono pezzo di verminare. insomma. Nuovamente ringraziamo ancora Lud Rising, Hostiliter, gli Scheletro e Malclango. E continuiamo appunto con i Malclango. Poi ricordo ancora i concerti in versione integrale, li troverete sul sito di Radio Onda Rossa. Vabbè, è difficile descrivere un live dei Malclango, li dovete vedere. Non solo ascoltare, li dovete vedere. Scimmie. Malclango. Insomma, vabbè, il concerto di queste macine lo troverete sul sito di Radio Onda Rossa. No, è un peccato, è un peccato troncarlo così, però insomma lo potrete ascoltare in versione integrale insieme al concerto dei Lud Rising. E no, qui insomma già la posta da presente apprezza e ascolterà, promette di ascoltarlo. Prometti di ascoltarlo, bene. No, lo ascolterò, ha detto. grazie apposta dello spazio rubato. Va tranquillo. Vabbè, noi siamo comunque in chiusura. No, no, ma puoi anche parlare, Cioè, cioè, possiamo anche andare. Sì, sì, sì. Dicevo, ma un commento sulle voci di contorno dei live, ma lo facciamo qualche volta. Ma in che senso? Vabbè, durante il live dei Malclango erano solo versi scimmieschi. No, tipo No, no, no, sì, infatti, no, io ho apprezzato durante il live dell'Hood Rising, siccome è solito, cioè, penso in ambiente punk hardcore, c'è sempre la voce che si eleva, fate in Abbat, no, invece cominciano, insomma, a variare, fate i Megadeth, bene, molto bene. Proprio un commento sulle chiacchiere da sotto palco, ecco, questo era il mio contesto. Ma poi la cosa bella, vabbè, io non dovrei svelarlo questo, però io posiziono il mio microfono ambientale in modo nascosto, quindi gli avventori e le avventrici delle iniziative non sanno che le loro voci in modo meschino finiscono qui su Radio Onda Rossa. E vabbè, che bofa. Allora, siamo in chiusura. L'appuntamento è per giovedì prossimo dalle ore 21 alle ore 22, sempre con Do It Yourself Invasion. Rimanete all'ascolto. Rimanete all'ascolto, perché tra poco inizierà una fantastica puntata di Apostasia. Noi ricordiamo l'appuntamento di sabato 19, se vi trovate a Bologna, all'XM24 dalle ore 21. E quindi un'iniziativa voluta dal collettivo Sala Prove Autogestita dell'XM24. E quindi il terzo Basement Show. Benefit per Tommy, Andre e Pippo. E poi il concerto dalle ore 21 a sostegno di Radio Onda Rossa, in collaborazione appunto con Radio Onda Rossa e Do It Yourself Invasion, che registrerà il concerto, poi lo ritrasmetteremo da queste frequenze. E quindi concerto con Scalp, Diegestas, Irrepulsione e i Collapse, che ci ascoltiamo così in chiusura. E quindi un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Un abbraccio. E questi sono i Collapse da Firenze. Rimanete all'ascolto, Apostasia tra poco. Vedo una nave con grandi vele sull'albero maestro, e dalla poppa penzola una canoa. Non è che la tua immaginazione. Quale nave può spingersi fin qui? Abbiamo tutti la febbre. È un'allucinazione. Si dice che questi sono segni che indicano l'approssimarsi della fine.